Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di venerdì scorso abbiamo imparato a conoscere i cool roof, ovvero tetti freddi che evitano il surriscaldamento dell'edificio sottostante a causa del sole estivo. Come abbiamo visto, la tecnologia ha messo a punto vernici che non solo riflettono quasi al 100% la radiazione solare, ma soprattutto grazie a una grande capacità di emettere infrarossi riescono a disperdere efficacemente proprio il calore accumulato. Sotto sole una copertura verniciata con una di queste vernici arriva a una temperatura di circa 40 gradi contro i 70 di una copertura in metallo e gli 80 di una in bitume nero. Naturalmente però non si può pensare che una copertura bianca sia adatta a tutti i contesti architettonici, soprattutto nel nostro paese, in cui, come sappiamo, ci sono molte bellezze anche architettoniche da tutelare, un paesaggio che richiede attenzione. Si pone dunque la necessità di altri materiali che possano svolgere una funzione simile a queste vernici con roof, ma che trovino applicazioni in tutte le altre circostanze. C'è un settore della ricerca che lavora su questo e naturalmente in prima fila c'è il nostro Alberto Muscio, ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che ci ha tenuto compagnia anche lo scorso venerdì sera e che ringrazio, direi, per essere tornato a trovarci. Buonasera Muscio. Buonasera Melis, grazie a lei. Allora Muscio, possiamo parlare non più di cool roof ma di cool colors. Di che cosa si tratta? Si tratta di superfici che riflettono la radiazione solare, ma la riflettono prevalentemente nell'infrarosso e l'ultravioletto, mentre nel visibile hanno uno spettro di riflessione che è quello che serve per dare un certo colore. Ecco, abbiamo spiegato, anche questo forse vale la pena di ricordarlo proprio venerdì, che più di metà dell'energia che ci arriva dal sole è sotto forma di raggi infrarossi, quindi che noi non vediamo, che non contribuiscono alla luminosità ma che trasportano il calore. Quindi queste vernici riflettono molto bene la parte invisibile della radiazione solare e invece hanno per la parte visibile il colore che serve. È proprio così, sì. Senta, qual è la differenza di prestazioni tra queste vernici e quelle bianche? Ecco, chiaramente avendo il visibile un contenuto di energia pari al 40% del totale, se noi abbiamo un colore scuro, che quindi vuol dire... Un marrone, per esempio, un color marrone, cotto, no? Esatto, che un marrone corrisponde all'assorbimento del visibile intorno all'80-90%, è chiaro che più del 60-70% in teoria... non possiamo andare, nella pratica anche meno, perché la natura non fa saldi, quindi non è che non si riesce a realizzare un materiale che nel visibile assorbe moltissimo e subito fuori del visibile diventa altamente riflettente, però si può arrivare a risultati sicuramente interessanti. Ecco, senta, una delle coperture più diffuse in Italia è il coppo, la tegola, materiali quindi ceramici oppure in terracotta. Voi qui state lavorando, avete anzi già sviluppato una soluzione che mi sembra interessante anche spiegare. Certo, il coppo è proprio il classico esempio di una superficie che ha una riflettanza solare, cioè una capacità di riflettere la radiazione solare non molto alta, diciamo un coppo riflette poco più del 30%, quando è chiaro, se poi abbiamo un coppo nero oscuro anticato, quello assorbe quasi tutto, è quasi una guaina nera. Se noi sfruttiamo il principio di questi cool color, possiamo andare a trattare la superficie del coppo per avere quel color terracotta tipico tradizionale dell'architettura italiana, ma avere una riflettanza solare che nelle nostre prove in laboratorio può superare anche il 55%. Ecco, d'accordo, quindi qui parliamo più che di una vernice, forse di un trattamento superficiale. Sì, parliamo di un trattamento che va fatto in fabbrica piuttosto che sul sito, quindi in sede di lavorazione del coppo nuovo. Ecco, più o meno in che cosa consiste? Consiste in una normalissima smaltatura, come si fa sulle piastrelle per dare la colorazione, che tra l'altro nei coppi viene fatta spesso per uniformare il colore oppure per dare il carattere anticato, quindi è un processo che già c'è. C'è un impatto significativo, non quindi a livello di, diciamo, di filiera della produzione, ma a livello economico, questi smalti sono molto costosi? Non più degli smalti tradizionali. Senta, situazione di sviluppo di questa innovazione che avete sviluppato appunto lì a Modena e Reggio Emilia, all'università. Sì, ecco, possiamo dire che se per i cool roof ormai siamo in una fase matura in cui cominciamo ad avere moltissimi prodotti in commercio, che tra l'altro in Italia tendiamo a caratterizzare quasi in buona parte noi a Modena, sui cool cores invece siamo ancora in una fase sperimentale, però in questo momento posso dire che ci sono già alcuni prodotti che sono molto vicini all'industrializzazione. Abbiamo già dei trattamenti adatti a superfici ceramiche come possono essere coppie e tegole che possono essere implementati nelle normali linee di produzione, quindi la produzione potrebbe arrivare sul mercato nell'arco di pochi mesi. Quindi nell'arco di pochi mesi ci possiamo aspettare che diventino disponibili questi nuovi coppi e tegole con caratteristiche speciali, che ci aspettiamo abbiano un costo quindi paragonabile a quelli normali. A meno dei costi di ricerca e sviluppo da spalmare poi sulla produzione e voi certificazione anche. Certo, certo. Voi siete in cerca di, come dire, collaborazioni industriali o a questo punto voi siete a posto? Ve lo auguro, eh? In parte, diciamo che alcuni studi li facciamo assieme a aziende su commessa, altri studi li facciamo noi per ampliare la nostra base di conoscenze, e anche in questo settore diciamo abbiamo degli studi che abbiamo svolto internamente, quindi stiamo mettendo insieme, categorizzando i risultati per poi proporci a eventuali investitori. Ecco, insomma, allora lanciamo l'appello, fatevi sotto magari voi investitori se pensate di poter avere insomma un qualche interesse a sviluppare questo tipo di prodotti, di tecnologie. Grazie Muscio. Grazie Melis, buonasera. Bene, ci fermiamo qui, Mr. Kilowatt torna domani, parleremo di una centralina intelligente in grado di far funzionare insieme alla massima efficienza varie delle tecnologie più diffuse per quanto riguarda l'efficienza energetica negli edifici. Questo è davvero tutto, appuntamento a domani, buona serata a tutti voi.